Mix 24 di Giovanni Minoli. Il meglio di Andrea Guerra, 49 anni, romano, sposato con 3 figli, uno dei più prestigiosi manager italiani, campione di sviluppo di ogni azienda che ha diretto, dalla Merloni alla Luxottica. Nel 2004 è stato considerato dal Financial Times una delle 25 stelle del business mondiale. Nel 2014 il primo amministratore delegato d'Italia. Ai giovani dice: seguite la vostra vocazione, girate il mondo, siate cosmopoliti, il resto verrà. Impegnato nella cultura e nel sociale, ha lasciato Luxottica con un bonus milionario. Ha accettato l'offerta di Renzi di essere il suo consigliere per le politiche industriali e le relazioni con la business community dopo aver rifiutato di fare il ministro. Ecco, dottor Guerra, perché prima ministro no, adesso consigliere presidente sì? Buongiorno a tutti. Sicuramente perché al tempo ero anche impegnato a fare altro e quindi sicuramente non era all'ordine non del era giorno. All'ordine del giorno. Ma Renzi come l'ha conquistata? Ma è una relazione che parte da lontano, una relazione tra due persone, non tra il primo ministro e un dirigente d'azienda. Ma consigliere per fare cosa esattamente? Temi molto specifici, non sono nell'ordinaria amministrazione, non sono nel quotidiano, ma temi molto specifici di natura aziendale, business, industria. Senta, ma da consigliere si può intervenire più efficacemente nelle scelte? Consigliere, lo dice la parola stessa, per cui non fai, ma consigli e cerchi di far sì che determinati progetti possano andare avanti. Senta, ma i rapporti con i ministri sottostanti sono difficili? Vede, ognuno di noi è un essere umano e una persona e alla fine sono delle relazioni umane che uno costruisce nel tempo. Vabbè, diplomatico. Senta, intanto adesso lei che orienta le scelte strategiche in tema di banche, privatizzazione, agenda digitale, politica industriale. Partiamo dalle privatizzazioni, sentiamo cosa ha detto Renzi. Sulle privatizzazioni noi andremo su Poste, stiamo lavorando sul futuro di Ferrovie. Credo che la privatizzazione ulteriore di Eni dobbiamo valutare, riflettere. Può vendere RaiWay. Il governo ha messo delle regole su RaiWay che non intende modificare, riguardano il 51%. Senta, mi sembra che sulle Poste Caio resiste, così. Allora, prima di tutto, privatizzazione cosa significa? Significa portare delle aziende in borsa? Comunque, come dire, lo Stato rimane comunque. Portare l'azienda in borsa conviene perché le aziende sono più trasparenti, più efficienti, sono più orientate al mercato. Sì, ma Caio resiste però. Poste è uno strumento fondamentale per l'Italia, per l'educazione finanziaria italiana, per l'educazione digitale italiana. Io non penso che resista. Perché penso che va così a rilento allora? Perché deve fare determinati passaggi. Cioè, il passaggio dallo Stato al mercato è un passaggio delicato. Complicato. E lo sta facendo delicato, e lo sta facendo con i giusti passi e arriverà in borsa. Senta, ma e migliaia di anziani pensionati che magari vedranno chiudere l'ufficio postale sotto casa, quando e come si accorgeranno dei benefici della digitalizzazione? Beh, io credo che stiamo parlando di cose diverse. Da un lato c'è un servizio universale della posta che ha un suo perché, ma che va con i tempi. Se la quantità di posta è calata del 20, 30, 40... Insomma, bisogna rassegnarsi. Ma bisogna fare delle cose che servono al cittadino, al pensionato, e dall'altra parte che però non costino dei miliardi. Senta, tutti i giorni. Lei conosce bene Caio, è l'uomo giusto al posto giusto? Assolutamente sì. Perché? Ma perché è un rivoluzionario, è una persona che è in grado veramente di cogliere determinati direttrici con abilità e sa perseguire i suoi obiettivi. Renzi ha detto anche questo sulle tasse, senta. L'Italia con questa legge di stabilità compie la più grande opera di riduzione delle tasse mai tentata. Lei pensa che qualcuno si è accorto della riduzione delle tasse? Allora, prima di tutto penso che oggi come oggi fare le medie è veramente fare le medie del pollo. Oggi non credo sia necessario abbassare le tasse a tutti. Io credo che sia necessario abbassare le tasse a determinate categorie di persone. Sì, però in realtà tutti invece si sono accorti che sono aumentate sulla casa e le imposte locali. Allora? Io penso che ci sia ancora oggi paura del futuro più che una consapevolezza vera di un aumento delle tasse. Se poi mi chiede queste tasse devono calare nel tempo, io non ho dubbi. Però è lo stesso governo, appunto, che non prevede una diminuzione delle tasse. Infatti, nel documento di programmazione economica, per il 2014 prevede 43,3% di pressione, 2015 43,4%, 2016 43,6%. Mi pare che aumentano invece. No, che vede, diminuire. Allora, prima di tutto torno alla famosa media del pollo. Per cui, se questa cosa significa che le tasse a me aumentano di qualcosa e le tasse ad altri calano di tanto, secondo me è giusto. Insomma, sia la patrimoniale e riduzione delle tasse a chi ha meno. Questo. Vede, io sono convinto che uno dei grandi problemi del rallentamento e della fermata dell'Italia è questa non volontà di rischio, questa volontà della scorciatoia, della rendita, di essere nonna. Io trovo questo sbagliato. Niente nonne. Senta, però siamo il paese più vecchio del mondo dopo il Giappone. Insomma, qualche nonna c'è. Senta, dottor Guerra, quanto è diverso il mondo visto da Palazzo Chigi rispetto a come lo si vede dalla tolda di una grande azienda dove è sempre stato? È molto diverso. Molto diverso. Molto cioè, diverso. La differenza più grande... Io pensavo che il governo fosse un'unica cosa, invece il governo è composto da tanti ministeri. Insomma, ma c'è la stanza dei bottoni oppure no? Io non l'ho vista. Ah, non l'ha vista, aveva ragione Nenni, insomma. Che cosa la stimola di più? A me veramente questo anno sabbatico che ho preso mi stimola. Tutti noi stiamo lì a lamentarci sempre. E io ho detto, c'ho un anno, sono un po' stanco, vado a fare quel che so civil fare. Civil servant. Ci provo. A Luxottica, all'aumento del fatturato corrispondeva per sua scelta un aumento di benefit sociali per i lavoratori, cioè praticamente aveva anticipato una forma di Job Act. Il Job Act va in questa direzione o no? Penso che dentro al Job Act ci siano tante cose buone. Credo che manchi ancora qualcosa di fondamentale, che è la protezione del lavoratore nel lungo periodo. Cioè va bene la flessibilità, ma le tutele crescenti devono esserci, non ci sono ancora la abbastanza. Flessibilità ce lo chiede il mondo, il mondo è diventato più stabile, meno prevedibile, quello che succede tra una settimana non lo sappiamo, per cui la flessibilità è importante. Necessario. Però, è fondamentale, società. Ma soprattutto la qualificazione e la riqualificazione. Siamo indietro lì, là dentro non io c'è penso molto. Che noi stiamo oggi vivendo un mondo straordinariamente diverso, ma non è un mondo che sarà, è un mondo che è. La rivoluzione industriale c'è stata. La nascita di nuovi business, perché stiamo mettendo lavoro e tecnologia insieme, sta producendo un nuovo tipo di lavoratore. Insomma, questo lavoratore deve essere protetto. Insomma, sul lavoro la linea Marchione sulle relazioni industriali va bene, secondo lei, allora? Non è la mia. Non è la sua. Restiamo alla privatizzazione di Rai Way. 51% dice il governo, l'abbiamo sentito, per restare pubblico. All'Enel basta il 30%, perché? L'ha detto, sappiamo che lì ci sono 20 anni di storia particolare. Insomma, se non fossero di Berlusconi e di Tower, forse sarebbe diverso. L'ha detto lei. L'ho detto io, va bene. Senta, quindi adesso che il mercato mette a nudo con chiarezza quello che il centro-sinistra non ha fatto quando governava, cioè il conflitto di interessi. Ma soprattutto nel momento in cui c'è chi torna a fare il proprio mestiere di imprenditore, è evidente che questo viene più alla luce. Lei si è occupato della riforma della RAI? No. Ma nell'epoca allora come cittadino, nell'epoca della globalizzazione delle comunicazioni multipiattaforma, ha ancora senso parlare di servizio pubblico? Penso di sì, penso che ci sia un cittadino, penso che ci sia un cittadino in questa Italia che deve avere la possibilità di divertirsi, avere la possibilità di avere cultura, avere la possibilità di avere approfondimenti. Penso di sì. La cosa fondamentale è avere un'azienda vera davanti, un'azienda che è capace di interpretare quello che viene richiesto. Senta, si è fatto il suo nome come possibile amministratore delegato, le piacerebbe? No. Perché? Non è il mio mestiere. Fare l'amministratore delegato mi pare di sì. No, non è il mio mestiere fare l'amministratore delegato di un'azienda pubblica. Senta, dottor Guerra, intanto lei è stato uno dei protagonisti nella riforma delle banche popolari. Perché era così urgente? Penso che oggi l'Italia abbia una serie di problemi. Il credito è uno di questi. Avere delle banche forti è importanti. È evidente che quando le banche popolari stesse hanno detto che erano alla ricerca e allo studio di un'autoriforma per 20 anni, e questa autoriforma non si è fatta, significa che ogni giorno era un pochino più urgente. Ma era una priorità, quindi. Io penso che sia una priorità per l'Italia avere delle banche forti. Senta cosa dice il professore Alessandrini. In Germania, altrove, in Francia, in Austria hanno depurato i crediti inesigibili con la cosiddetta soluzione della bad bank, e in Italia non è stato fatto. Questo è un grande errore. In Germania è andato in un altro modo, la Merkel le ha salvate. Ecco, è proprio questo il problema. Questo spiega che il decreto legge Renzi non è né prioritario né estremamente utile. In Germania le banche del territorio sono state salvate con soldi pubblici, 250 miliardi. Allora perché da noi no? Allora, il professore dice due cose. Dice, da un lato, i crediti inesigibili sono stati gestiti in altri tempi. La Spagna l'ha fatto, l'Irlanda l'ha fatto, la Germania l'ha fatto in un altro modo. Noi non l'abbiamo fatto. Quindi siamo in ritardo. Un errore. Ma perché non abbiamo fatto la bad bank? Perché non abbiamo... Vede, si parla tanto di bad bank, che è sicuramente uno strumento possibile, non è necessariamente l'unico, sì. Perché poi noi ci preoccupiamo della bad bank, ma il problema vero è che per riuscire a mettere le mani su una garanzia di un credito in Italia ci vogliono 7 anni, in qualunque altro paese sono 2. Allora questi sono anche i nostri problemi, non sì. È necessariamente il veicolo della bad bank. Sì, ma è lo strumento del decreto era indispensabile? Penso di sì. Mix 24. Nel caso dell'Ilva, di cui lei si occupa, più che di privatizzare, però mi pare che si stia pubblicizzando, sbaglio? Ma vede, penso che l'età che viviamo è un'età di paradossi, per cui non è più la O ma è la E, per cui ci sono dei momenti in cui è necessario prendersi la responsabilità. Cioè pubblico e privato può essere una strada io nuova? Io non ho dubbio da questo punto di vista. Ma è stata buttata via troppo in fretta l'IRI, secondo lei? IRI proprio non so neanche cos'è. Sì. Quello che le dico è che l'Ilva sicuramente sono 15 anni di scempi. Ma cosa le fa credere che questo pubblicizzare pubblico e privato, come dice lei, con i tempi che avete pensato, andrà bene? Non ho nessuna sicurezza che andrà bene, è un percorso difficilissimo. Ci sono degli investimenti da fare per restituire un minimo di degrado ambientale ingenti, e qui c'è un qualcosa di interessante. Ci sono dei pubblici ministeri che hanno fatto un lavoro straordinario per andare a sequestrare dei fondi della famiglia ex proprietaria o attualmente proprietaria della Ilva in amministrazione straordinaria, e per la prima volta si cerca di sancire il fatto che chi rompe paga. È una cosa secondo me straordinaria. Senta, e andrà a finire bene secondo lei questa storia dell'Ilva? Se si va veloci, sì. Beh, con Renzi dovrebbe essere facile andare veloci. Abbiamo anche parlato della stanza dei bottoni. Vabbè, ok. Senta, dottor Guerra, il sistema industriale italiano manifatturiero è molto legato alle piccole e medie imprese. Quelle vincenti lo sono perché legano artigianato, manualità con grande capacità di innovazione tecnologica. È la strada vincente sui mercati globali, lei che è passato attraverso prodotti di questo genere? Ci sono altre caratteristiche che devono andare insieme a queste. Uno è che queste aziende devono avere dei marchi, devono fare sognare, devono avere delle emozioni. Due, devono essere delle aziende, delle imprese vere, aperte, con un consiglio di amministrazione non fatto dalla cugina e dalla zia, con una proprietà che fa la proprietà e un management che gestisce, delle aziende più aperte, delle aziende più forti. Lei ha avuto proprio rapporti con queste famiglie, diciamo due esempi per tutti, clamorosi, Merloni e Del Vecchio. Ecco, lì com'è? Com'è stato questo? È stato un viaggio straordinario, bellissimo, meraviglioso. Se io sono quello che sono oggi, lo devo a Vittorio Merloni, lo devo a Leonardo Del Vecchio, lo devo alle persone con cui ho collaborato tutti questi anni in Luxottica. E lì questo rapporto famiglia-management? Non è famiglia in queste situazioni, ma c'è un leader, e questo leader era chiaro. Senta, lei però è teorico del non è vero che piccolo è bello, allora non c'è una contraddizione? No, il tema vero è che quando noi parliamo di medie e piccole aziende parliamo rispetto alla media europea di micro aziende. Le micro aziende purtroppo in questo mondo non hanno più significato. Lei ha 3 figli. Che cosa vorrebbe essere sicuro di aver insegnato loro? Che diventino dei bravi cittadini. Come? Come glielo insegno? Parlando, raccontando. Sono noto tra i miei figli come quello dei discorsetti. Ah sì, dedica molto tempo allora, no? Tutto quello che riesco, ma penso che sia molto di più della media dei miei colleghi. Senta, ho letto... Non necessariamente con grandi risultati. Vabbè, ok. Senta, ho letto che quando parla ai giovani lei dice sempre che scegliersi un capo è più importante di scegliere il lavoro da fare. Davvero lo pensa? Credo che qua lei può venire insieme a me. Quando noi iniziamo il nostro lavoro, la cosa fondamentale è imparare a lavorare. Non è né un titolo sul biglietto da visita nell'azienda, ma è imparare a lavorare, imparare a cosa significa fare azienda, stare con altri, capire il prossimo, ascoltare il prossimo. Quanto è difficile ascoltare il prossimo, ma è l'arte fondamentale in azienda. Senta, ma cioè è più importante seguire le proprie passioni che decidere cosa studiare? Io penso che quando uno ovviamente riesce a fare il mix è la cosa giusta, certo. Non c'è dubbio. Oggi come oggi penso che il mondo... di nuovo ti metto a disposizione l'idea che tu possa seguire le tue passioni, però il mondo, non necessariamente l'Italia. Il mondo in questo senso cosmopolita. Non c'è dubbio. Senta, ma lei cosa cerca prima di tutto, dopo questo che mi ha detto, in un collaboratore? Quando cittadini devi scegliere... del mondo. È la prima caratteristica che devono non avere. Non è proprio, è assolutamente quella. Senta, dottor Guerra, ma passare alla politica con i suoi riti, le sue pastoie, per un abituato come lei a dire e fare nello stesso tempo, cosa significa? Non sono passato alla politica. No. Ma cosa ha dovuto cambiare nel suo carattere per usare questo tempo di questo anno? Vede, ovviamente il carattere uno non cambia. Il tema vero è che uno impara. Hai imparato qualcosa che non pensava di riuscire a imparare in questi mesi? La creazione del consenso è complicata, lunga, costante. Uno deve avere una perseveranza straordinaria, ma poi certe cose vanno molto più veloci di quanto ti aspetti. Senta, Renzi è molto bravo a dare per fatte le cose che racconta, però la realtà spesso è diversa. A gennaio la produzione si è fermata a un meno 2,2% sull'anno. Va bene per lei, va bene che per lei, perché l'ha detto in un tweet, un dato è un caso, solo due dati sono un trend. Ma in questo caso è il trend com'è? È un dato o un trend? Allora io le dico questo, ci sono una serie di condizioni esterne all'Italia straordinariamente fortunate e positive. Ci sono una serie di condizioni in Italia che derivano da tante cose fatte dal governo Monti, Letta e poi soprattutto dal governo Renzi, nei confronti di tante parti dell'economia, che mi fanno pensare che il 2015 sarà migliore rispetto agli indici che vediamo. Insomma, dottor Guerra, il piano Juncker dovrebbe rilanciare l'Europa, un altro libro dei sogni o no? Vede, coniugamolo con il piano della banda ultralarga. Sì. Questo piano è un piano pratico, pragmatico, attivabile, arriva in un momento topico della tecnologia. E allora? E allora penso che riuscire a coniugare investimenti privati di nuovo con una serie di fondi pubblici possa essere una cosa quindi straordinaria. Quindi è la priorità assoluta del governo? Io penso che la banda larga sia fondamentale. Ricordiamoci cosa è diventato la Freccia Rossa in pochi anni per l'Italia. Sì, una freccia, una super freccia rossa. Assolutamente fondamentale e necessaria, e andiamo a colmare un qualcosa che è successo. Noi non abbiamo avuto una TV via cavo, no. E per cui non abbiamo la banda larga. Perché non abbiamo avuto la TV via cavo? Vabbè, una storia lunga. Allora, cioè, niente di quello che è successo oggi è figlio del caso e del destino. Senta, ma realizzata da chi questa banda larga? Stiamo a vedere, io spero di nuovo che l'incumbent, il leader, Telecom Italia, sia assolutamente, come dire, il player protagonista in questa cosa. È possibile? Lo andiamo a capire. Senta, ma quindi Telecom Con? Io penso che sia importante avere, è il leader. È italiana. Senta, lei ha detto che sarà un lavoro a tempo il suo a Palazzo Chigi. Non potrebbe innamorarsi per un tempo lungo? Io sono innamorato del mio lavoro. E quindi tornerà a fare il suo lavoro? Non c'è dubbio. E dove? glielo racconterò alla prossima puntata. Va bene, ok, io aspetto. Senta, ma per dire ok, operazione compiuta in questo tempo, che cosa vuol dire? Cosa vuole essere sicuro di aver realizzato? A me piacerebbe che due o tre cose fondamentali dell'Italia si avviassero in un'altra direzione. Il credito, il mercato dei capitali è fondamentale. Una cultura imprenditoriale che comincia a cambiare è fondamentale. Il salvataggio dell'Ilva, dal mio punto di vista, è un simbolo straordinario. L'avviamento si può fare. Ah, l'avviamento, non la conclusione. Beh, se Ilva è salvo o no, lo sappiamo per l'estate. Per l'estate si saprà se l'Ilva è salva o no. Non c'è dubbio, perché sicuro. Perché salva o fallita. Sì. Senta, un'ultimissima domanda. La distanza tra il paese che Renzi racconta e quello reale, che distanza è in termini di anni, secondo lei? Secondo l'età, non... è il fatto di essere giovane che gli consente di raccontarlo così? Non c'è dubbio. E poi complessivamente abbiamo paura. Abbiamo di nuovo, è quello che dicevo prima, abbiamo perso questa volontà di rischio, abbiamo perso questa volontà, io mi riferisco poi sempre anche all'impresa, di fare impresa è una cosa importante, è una cosa di sacrificio. Insomma, i giovani possono darci un'energia in più in questo senso. Io, una delle cose che chiedo sempre a Renzi, veramente di fare un patto generazionale fortissimo, perché quella generazione è molto forte, molto pronta e anche preparata. Senta, mi ha detto una cosa bellissima prima di entrare, mi ha detto: è la prima volta che non sono più il più giovane. È così, è vero. E che effetto fa? Brutto.